vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.36 e tramonterà alle 20.51. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Lo stato della frutticoltura in Friuli Venezia Giulia è il tema di apertura di questa puntata, un settore che prometteva molto ma che per vari motivi, dalla scarsa estensione delle aziende fino all'attuale flagello della cimice, non si è sviluppato come forse ci si attendeva. Nella pagina del bio scopriremo gli accoppiamenti perfetti e i benefici fisici per le piante nella cosiddetta coltura a file alterne che sta prendendo piede nelle grandi aziende. Spazio poi all'ortolano filosofo, cui bastano 4 azioni essenziali da la semina alla raccolta per vivere bene, le caratteristiche dell'estivo lampone, le paure dei consumatori europei a tavola, dagli antibiotici nella carne ai pesticidi fino alle microplastiche. Quindi la ricetta marmellata di albicocche semplice ma con un segreto ed excursus nella storia della confettura, l'andamento dei mercati, le previsioni meteorologiche per la settimana con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano chiudono la puntata. La frutticoltura del Friuli Venezia Giulia è stata protagonista pochi giorni fa di un convegno alla festa delle pesche di Fiumicello, un comparto che ha attraversato momenti di entusiasmo, di grandi aspettative. Sono aspettative deluse? Lo chiediamo a Raffaele Testolin, docente di frutticoltura all'Università di Udine. Sono aspettative non deluse, perché non va male la peschicoltura a Fiumicello. Le superfici a pesco nella zona di Fiumicello sono intorno agli 80-85 ettari, direi non poche. Per la frutticoltura in generale in Friuli direi che è poco sviluppata. Io sono venuto in Friuli nell'81, c'erano 2000 ettari e adesso siamo sempre lì, quindi la politica regionale per 40 anni, 50 anni ha privilegiato le grandi colture cerealicole e la zootecnia. Secondo me, facendo un errore, perché considerate le dimensioni medie aziendali che sono piccole, era meglio puntare su colture da reddito più alto, orticoltura, frutticoltura. Quali sono le varietà più importanti della frutticoltura regionale? In questo momento il melo, l'olivo che sta crescendo e il kiwi. Poi abbiamo altre specie che possono diventare interessanti come il noce, il nocciolo, però sono specie che danno reddito più basso. Il kiwi è stata una delle grandi promesse in Friuli Venezia Giulia. Siamo stati una delle prime regioni a investire in questa specie e le promesse erano veramente elevate. Poi 10 anni fa abbiamo avuto una brutta malattia che perdura tuttora e quindi il mondo produttivo si è un po' raffreddato nei confronti di questa specie. Sul comparto poi da qualche anno ormai pesa il flagello della cimice asiatica. La cimice è veramente un flagello. Adesso poi dall'anno scorso si è spostata verso il mare e arrivata nella zona di Fiumicello ha scoperto che il pesco le piace tanto. Direi che abbiamo anche delle speranze, sono stati identificati 2 predatori che adesso sono in valutazione e in allevamento, una volta che potranno essere liberati credo che nel giro di 4-5 anni risolveremo il problema. Si sono perse delle occasioni, che cosa si può fare per recuperare terreno nella frutticoltura regionale? Difficile per il Friuli in questo momento rientrare, diciamo, nel grande slam della frutticoltura industriale. Forse le prospettive sono per l'avvio di qualche nuova coltura, dicevo prima il noce, il nocciolo, ma potremmo aggiungere anche il ciliegio e qualche altra specie, ma soprattutto il problema riguarda i canali di distribuzione. Noi facciamo fatica a sopravvivere, considerato le piccole dimensioni delle aziende, conferendo ai grossi centri di raccolta della frutta e rifornendo la grande distribuzione organizzata. Quindi quali sono i mercati di elezione per la frutta regionale? Direi i mercati di prossimità, il che vuol dire vendita diretta al pubblico, vendita attraverso i farmers market. La Coldiretti ha sviluppato una rete importante di mercato, del mercato contadino, e anche la fornitura di qualche negozio specializzato. Anche la GDO potrebbe rappresentare una soluzione, perché in questo momento sta sviluppando delle piccole nicchie di mercato per i prodotti locali. E poi c'è il capitolo trasformazione, che riesce a moltiplicare il valore della frutta. Se possiamo dirlo con un numero, il valore passa da 1 a 10. Quindi certamente i prodotti trasformati valgono molto di più se vengono trasformati in azienda. Da questo punto di vista il Friuli è piazzato bene, c'è una tradizione, ci sono molte aziende che producono anche prodotti trasformati, quindi per quanto riguarda la frutta, succhi, confetture, quindi direi che è un settore che si sta sviluppando bene. La scorsa puntata Cristina Micheloni per la rubrica del bio ci aveva parlato di biodiversità a strisce. Ritorna oggi sull'argomento che pare sia un pochettino la nuova frontiera delle semine in agricoltura. E oggi il titolo è Diversità a file alterne. Sentiamo. Sul perché diversificare abbiamo già detto molto, su tutto terreno, insetti, non ridico più nulla. Sottolineo però un aspetto, i benefici fisici della combinazione di più colture, perché le colture diverse possono sostenersi una con l'altra. Qua andiamo a vedere un prato stabile non alletta mai, proprio perché ha diverse colture che tengono insieme fisicamente la struttura dell'insieme. Quando abbiamo una coltura specializzata, l'orzo, il pisello proteico, qualunque coltura singola, se c'è pioggia battente, e quest'anno insomma ne abbiamo avuta, vento, un po' di azoto in più, che non guasta, anzi guasta, e quindi la coltura si piega. Alcuni esempi molto, molto pratici e già praticati di due colture che possono essere seminate assieme o nello stesso momento o in due momenti diversi, però a file alterne, una e l'altra, una dopo l'altra, ci danno l'esempio di come si può fare questa cosa. Questo vale sia per chi vuole poi utilizzare le due granelle assieme, per esempio in zootecnia, oppure, e ci sono esempi pratici anche in questo, per chi vuole raccogliere tutto assieme ma poi utilizzare separandole le due granelle, basta un setaccio, non è così difficile. Vado con gli esempi. Un gran classico, orzo e pisello da utilizzare assieme poi nelle aziende zootecniche per l'alimentazione degli animali. Il beneficio fisico in questo caso è a vantaggio del pisello, che può avvinghiarsi e quindi crescere un po' di più, non toccare terra, non sporcarsi perché sta sull'orzo. Altro esempio, favino e orzo oppure frumento e segale, anche per la raccolta, per poi la separazione delle granelle. Importante il fatto che la dimensione dei due semi sia evidente, in modo da facilitare la separazione. Lenticchie e camelina, una cosa un pochetto più strana per noi, oppure anche le lenticchie crescono in Friuli, si sono coltivate, si possono coltivare e hanno una richiesta di mercato molto interessante. La camelina in questo caso, che ramifica, sostiene la lenticchia e la protegge di nuovo dal vento. Il fagiolo, non quello rampicante, con il grano saraceno, sempre per l'idea di mantenere gli insetti utili presenti e più a lungo possibile nella coltura e anche dare un sostegno. È l'alternativa moderna, se vogliamo, del fagiolo rampicante sul mais, che di cui alcuni avranno ancora memoria e soprattutto storia. Alcuni criteri però per fare queste cose: tempi di semina, ci si può organizzare, ripeto, o seminando assieme, che è molto meglio, oppure in differita. Però se usiamo delle sementi che hanno una dimensione molto diversa, richiedono profondità di semine diverse. Il seme più grosso va più in profondità, quello più piccolo sta più in superficie. Quindi in questi casi può essere più furbo fare due semine in momenti diversi. Chiaramente uno deve fare i conti con l'attrezzatura che ha e considerare anche che una delle due colture può rimanere come sovescio. Quindi ne raccolgo una, magari l'altra la lascio continuare a sviluppare e la uso come sovescio. Nel frattempo mi ha fatto un altro servizio. Quindi ci sono qualche foto che vi lascio per avere qualche idea molto pratica di come essere diversi anche sulle file. Le foto ovviamente potete vederle su Facebook. Semino, osservo, curo, raccolgo, e questo è il mantra dell'ortolano filosofo Stefano Montello. Io sono soltanto uno che fa l'orto. Semino, osservo, curo e raccolgo. Non ho mai fatto altro nella vita. È grave? Oggi barmiamo tutti di fare, ci affanniamo a fare, siamo ossessionati dal fare, vogliamo lasciare un segno del nostro passaggio. Ci sono un sacco di uomini del fare in giro. Io no. Io non faccio nulla, a parte l'orto, si capisce. E sono più le cose che non faccio a darmi soddisfazione e a spiegare meglio chi sono. Per esempio, non sono mai andato in televisione a dare o a prendere dell'idiota. Non mi sono mai gonfiato i muscoli con gli steroidi. Non mi sono mai buttato nel tagliamento alla vigilia di Natale per mostrare al mondo che ho la buccia dura. Non ho mai fatto un corso di origami, né ho mai corso la maratona di New York, e neppure, per lo stesso senso del ridicolo, la corsa dei sacchi a Fraforeano, qui vicino a casa mia. Non sono un virtuoso della chitarra o del letto matrimoniale, non sono un mistico rosicchiato dei pidocchi che mangia radici, non ho mai visto la Madonna, neppure San Giuseppe. Padre Pio sì, lo hanno appeso dappertutto. Non ho mai detto una frase storica, una citazione importante, un aforisma indimenticabile, nulla di nulla. Ma quello che non faccio, a me, piace tantissimo non farlo. Io vado pazzo per le cose che non faccio. Meno cose faccio e più sto bene. E meglio capisco quello che sono. Ma da ortolano, quattro cose le faccio. Semino, osservo, curo e raccolgo. Tutto il resto è conseguenza, casualità, tempo variabile, vanità. Ma quando io compio queste quattro azioni, semino, osservo, curo e raccolgo, io non faccio, io agisco sulla realtà e sono il padrone di me stesso. Sono persino un poeta, essenziale come un poeta. E come un poeta dell'orto mi aspetto che i nostri accademici si decidano a darmi, o prima o poi, una laurea honoris causa in agraria. Per la rubrica dedicata alle piante, Antonino Daneluto ci racconta oggi di un frutto selvatico, il lampone, delle sue caratteristiche ed utilizzi. Si avvicina il periodo delle ferie, le località montane si rianimano, i villeggianti approfittano delle belle giornate per compiere escursioni più o meno impegnative, alcune mirate alla ricerca di gustosissimi piccoli frutti spontanei ormai giunti a maturità. Assieme ai mirtilli e alle fragoline di bosco sono ambiti anche i lamponi, che si individuano con una certa facilità, soprattutto nei boschi e nelle radure, grazie al loro caratteristico colore definito proprio rosso lampone. La pianta del lampone ha come nome scientifico Rubus ideus, quelli friulani più comuni sono frambue e mugnee. Essa ha un portamento arbustivo ed è provvista di rizoma strisciante. Il suo fusto, che è eretto o un po' arcuato in alto, supera il metro d'altezza ed è ricoperto di numerosi piccoli peli rigidi. Le foglie sono pennate con 3, 5 o 7 segmenti color verde chiaro di sopra e bianco tomentoso di sotto, seghettati al margine. I fiori compaiono in maggio-giugno, sono peduncolati, solitari o in gruppi da 2 a 5. La loro corolla è formata da 5 petali bianchi. Il frutto è globoso e ricoperto da una peluria finissima, ha un diametro di un centimetro circa ed è composto da numerose piccole drupe opache, profumate e di sapore dolce acidulato gradevolissimo. I frutti trovano impiego in cucina in parecchie preparazioni, marmellate, confetture, succhi, sciroppi, bevande, gelatine, macedonie, gelati, sorbetti, frutta sciroppata. Inoltre guarniscono torte e conferiscono alla grappa un delicato profumo oltre che un gradevole sapore. Il nostro regolamento regionale consente la raccolta di frutti spontanei fino a 3 kg a persona al giorno. Numerose sono le sostanze contenute nei frutti, fra cui zuccheri, antociani, acidi organici, tannini, vitamine, principalmente vitamina C, sali minerali. Poiché si preferisce il loro uso gastronomico, vengono praticamente trascurati dalla medicina popolare, che pure ne sfrutta le scarse proprietà diuretiche, mentre per la presenza di acido ossalico sono sconsigliati a soggetti uricemici e gottosi. Invece le foglie, ricche di tannini, sono antidiarroiche e astringenti. Con esse, raccolte in giugno ed essiccate, si prepara un buon tè. A conclusione della serie di contributi sulla sicurezza alimentare, oggi con Claudia Fontanini, che è dell'Ufficio Qualità del Consorzio Agrario, parliamo proprio dei consumatori. Quali sono le loro principali paure in fatto di sicurezza alimentare e come reagiscono? Grossi scandali alimentari del passato, come quelli della mucca pazza, dell'influenza aviaria, della melamina negli alimenti per l'infanzia e del pollo alla diossina, hanno creato perdita di fiducia tra i consumatori. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha recentemente reso noto i risultati di un'indagine condotta proprio per approfondire le apprensioni degli europei e stabilire il livello di fiducia nelle autorità pubbliche deputate a gestire le tematiche inerenti alla sicurezza alimentare. Il 55% degli intervistati risulta avere un buon livello di consapevolezza riguardo a questi temi. Piuttosto elevata è la fiducia nelle autorità nazionali e nelle istituzioni dell'Unione Europea. Tra le maggiori fonti di preoccupazione risultano l'utilizzo improprio di antibiotici, ormoni e steroidi negli animali da allevamento, i residui di pesticidi, gli inquinanti ambientali e gli additivi alimentari. Tra i nuovi timori compaiono le microplastiche. Nella scelta del cibo, i fattori più importanti per gli intervistati sono la provenienza, il costo, la sicurezza e il gusto. Leggermente meno importante è considerato il contenuto di nutrienti e minor peso hanno considerazioni sul benessere degli animali e preoccupazioni ambientali. I risultati di questo studio dimostrano in generale che gli europei non risultano troppo preoccupati. È però indubbio che, per chi diffonde disinformazione, è facile giocare sulle emozioni che provoca un tema così quotidiano come quello dell'alimentazione. A riguardo, segnalo che l'Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione dei consumatori un portale in cui vengono analizzate notizie dubbie anche relative alla sicurezza alimentare. E torniamo alla frutta dell'estate ed in particolare alle albicocche con una ricetta per la marmellata che arriva dall'Austria e che Roberto Zottar ci regala insieme ad un interessante excursus sulla storia delle confetture. Siamo in piena estate, la frutta ha raggiunto l'apice di profumo e maturazione, perciò oggi vi voglio parlare di una ricetta per confetture di frutta di una famosa pasticcera alsaziana che si chiama Christine Ferber. Il principio base consiste in una macerazione con zucchero e limone prima di due rapide cotture che mantengono inalterate tutte le caratteristiche della frutta. I colori rimangono vivi, la polpa mantiene consistenza e al palato si sprigionano i profumi della frutta fresca. Già i greci cuocevano mele cotogne con il miele, mentre al tempo di Roma e di Apicio risalgono le preparazioni di frutta immersa in vino passito, o cotto, o mosto, o miele. Documenti medievali attestano il consumo di composte e canditi di frutta da parte dei ceti aristocratici e ricchi che potevano permettersi il costoso zucchero arrivato in Europa solo con le crociate. Il primo trattato sulle confetture è del 1555 di Michel de Notre Dame, da noi meglio conosciuto come Nostradamus, medico e astrologo della regina Caterina de' Medici. Le sue ricette per canditi e marmellate asciutte, come lui le chiamava, e le sue tecniche per conservare con lo zucchero la frutta, senza seccarla come era in voga all'epoca, suscitarono grande interesse. Dal XVIII secolo, poi, le confetture si diffusero per l'affermarsi dello zucchero e fu così anche per il termine francese confiture, dal verbo confettare, usato per preparazione destinata alla conservazione. Il termine marmellata è attestato dal 1579 e viene dal portoghese marmelada, derivato da marmelo, che è la mela cotogna. In italiano popolare, marmellata e confettura sono sinonimi, mentre per l'Unione Europea la marmellata è un prodotto a base di soli agrumi, mentre una confettura è a base di qualsiasi altro tipo di frutto di ortaggi. Per la confettura di Christine lavate 1,2 kg di albicocche mature e sode, tagliate a metà, denocciolate e mescolatele con 800 g di zucchero, il succo di mezzo limone e una bacca di vaniglia aperta. Dopo una macerazione di un'ora, portate quasi a bollore in una casseruola di rame. Versate in una terrina, coprite e lasciate riposare per una notte in frigorifero. Volendo, togliete la pelle delle albicocche. Rimettete nella casseruola e portate a bollore facendo cuocere a fuoco vivo per 5-8 minuti rimestando e schiumando. Verificate la consistenza della confettura con la prova del piattino o raggiungete i 105 gradi. Versatela in vasi di vetro precedentemente sterilizzati in forno a 130 gradi per un quarto d'ora. Tappate e capovolgete i vasi per crearli sotto vuoto. Si può fare anche con le pesche. Buon appetito! Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento diversificato venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 32,40 e 32,90, l'orzo, peso specifico 60,63, tra 15,30 e 15,80, il frumento tra 16,70 e 17 euro. Rispetto ad un anno fa, il mais e il frumento sono diminuiti di 50 centesimi il quintale. Segni di stabilità nel mercato dei bovini a macello, con le vacche fine carriera e prima qualità, pagate a peso morto tra 2,45 e 2,95 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Mercato fermo anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6,70 e 7,10 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,80 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,10 e i bruni tra 1,70 e 1,90. Toni con prezzi in lieve a un movimento nel settore suinicolo, con il valore dei lattonzoli di 30 kg franco partenza fissato a 3,05 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,26. Stabilità nel settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro il quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,50 e 13 euro, sempre IVA esclusa. Infine scambi con sostanziali variazioni nel comparto degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,13 e 1,15 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,53 e 1,55, le faraone in calo tra 2,10 e 2,14, le anatre tra 2,20 e 2,24, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 12,60 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. I primi 20 giorni di luglio sono ormai passati e constatiamo che la prima decade è stata calda, ben 2,5 gradi oltre la norma, mentre la seconda, chiusa ieri, è stata più fresca della norma di circa un grado. Il periodo più fresco in particolare è stato quello tra il 10 e il 15, con temperature massime che sono rimaste al di sotto dei 30 gradi in pianura, consentendo di tirare un po' il fiato dopo la lunga fase calda precedente. L'episodio più significativo dal punto di vista delle piogge, per quanto riguarda la seconda decade, è stato quello relativo ai temporali che hanno interessato la pianura sabato 13, con piogge localmente abbondanti ma anche con grandinate rilevanti e conseguenti danni al settore agricolo, specie per quanto riguarda la viticoltura. Da sottolineare lo spostamento di temporale dal Colio verso ovest fino a raggiungere la provincia di Venezia. La montagna non ne è stata minimamente interessata e solo marginalmente è stata la costa. Ci sono poi stati diversi episodi con piogge anche temporalesche, ma quasi sempre localizzati e comunque non tali da portare la quantità di acqua necessaria alle colture. Ora ci avviamo ad affrontare una terza decade del mese che si prospetta, come vedremo nelle previsioni, molto calda e per lo più secca e di conseguenza con l'acuirsi dello stress idrico. Pur essendo il periodo statisticamente più caldo dell'anno, assieme alla prima decade di agosto, le temperature andranno comunque ben oltre tale norma climatica. Ricordiamo a tal proposito che il record assoluto di caldo appartiene proprio allo stesso periodo del 2015 e più precisamente il 22 luglio, quando in pianura ci si è avvicinati ai 40 gradi e in particolare a Gradisca di Isonzo, per la prima volta in regione, si è superato questo limite, una volta impensabile, con ben 40,2 gradi. Già domani quindi prevediamo cielo sereno e caldo, con temperature massime ben verso i 35 gradi in pianura, poco al di sotto, sulla costa, dove la brezza esercita un effetto mitigatore. Sui monti non si diffuse comunque qualche gelato temporale di calore pomeridiano. Martedì e mercoledì il cielo sarà sereno e non dovrebbero nemmeno esserci temporali sui monti. Il caldo si accentuerà, con minime anche sopra i 25 gradi sulla costa e temperature massime oltre i 32, fino anche localmente a 36, in pianura. Le cose non sembrano destinate a cambiare anche dopo e verso il prossimo fine settimana, con anticiclone persistente, caldo intenso e afa in aumento. Per verificare se interverranno elementi nuovi, invitiamo gli ascoltatori comunque a seguire gli aggiornamenti quotidiani di Osmer ARPA sul web, sulla Rai Radio e Televisione e sui social network. Alla prossima! Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Sante Marie Maddalene ogni raf si semene, ovvero che il giorno di Santa Maria Maddalena, il 22 luglio, è il tempo giusto per seminare ogni tipo di rapa. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.